si sveglia dalle 9. Anche tu a casa? E allora, e dove vuoi che vada? Già si sta bene a casa. Io proprio a Ferragosto non vado da nessuna parte perché c'è troppo casino. Ci vado magari gli altri giorni, o prima o dopo, ma proprio a Ferragosto me ne sto a casa. Io... l'anno scorso sono andato al mare e ne fa la dall'aria come oggi. Prima dell'anno scorso sono andato al mare e ho dovuto mangiare in piedi sotto l'ombrellone perché si è messa a piovere e passava l'acqua lo stesso. Tanto vuole me ne sto in casa, tanto lo sapevo che pioveva. Due anni fa era un vento che ti si bruciava e dunque che me lo fa fare. Ho mangiato in casa, bene, tranquillo, al fresco, solo soletto, io e mia moglie. Siamo stati da Bascia. E io lo stesso, qua in casa, in famiglia, ugualmente. Stasera magari andiamo con un amico a trovare gente che c'è a Stintino, col fresco, verso le 8 arriveremo lì alle 8:30, 9, a Stintino, e ci facciamo magari una passeggiata, una bevuta, là, però almeno al fresco, di notte. E beh, già, andare al fresco. No, a me già mi hanno invitato parecchi parenti, amici, ma a me no. Non mi va un bel baccano, non è come prima. Prima, me ne fregavo, ma adesso, mi piace la tranquillità, il silenzio, la calma, senza esserci casino. Immagina quanti bidinculi ci sono oggi in Pinetta e da tutte le parti. E poi il ritorno in macchina deve essere un calvario perché ci sarà una colonna infinita di macchine che rientra. E poi gli incidenti anche, un bel incidente ci saranno, come sempre. Poi con queste due gocce di acqua che ha fatto, se non sarà attento sembra sapone l'asfalto quando piove l'usini. Lo so. È perché rende l'asfalto scivoloso per due gocce d'acqua e poi la gente corre, scivola e fa danno. E allora, ma se volevo me ne scendevo in campagna, già c'ho la casa, c'ho tutto, però ho detto per rimanermene giù in campagna così senza fare niente me ne sto in casa. E me ne sono rimasto in casa, però se volevo me ne scendevo in campagna. Solo io sono abituato, se scendo in campagna mi devo mettere a fare qualche cosa. Già lo sai, in campagna c'è sempre da fare. E allora mia moglie, siccome mi conosci, dice no, se mi fermo in casa, se no mi vengo a travagliare a fare. Sì, infatti, poi c'è come un caldo afoso oggi, come umidità, quindi se si lavora col caldo e l'umidità è terribile, guarda, meglio riposarsi almeno un giorno. Lo so, per dire, domenica sono sceso, tra una cosa e l'altra ero tutto il giorno facendo, verso le 5, mi sono sbuzzato, no. Non mi sono più pisato, va via un show di Raichina. I gatti erano sempre belli. KI. Sto dando i numeri anch'io. Adesso vediamo che ore sono. Ma giusto questo orologio. Aspetta un po'. Sono le 6:10, sì. Eia, qua c'ho l'orologio grande alle 6:10, poi la sveglietta batteria alle 6:10, sì, è giusto. E poi non ci sono nemmeno radioattori da ascoltare oggi. C'è gente sul ponte Cesar, ma non è gente che conosco di voce, tranne uno. Io l'ho accesa, ho contattato questa a tenerla in funzione, se entrava qualche libro. Ma mi stavo leggendo un libro qua, a me nella veranda, al prossetto, cioè la tenda abbassata, tutte le finestre aperte, passa l'arietta che è una meraviglia. C'ho un libro qua, quando non c'è niente da fare, lo prendo e me ne leggo 3-4 pagine, calmo, calmo, tranquillo, senza rompimento di scatole, al silenzio, me lo leggo bene, quando mi ho letto 2-3 pagine, ce lo rimetto a posto. Ma un po' compreso. Volevo fare un giro di canali per vedere se c'è propagazione, ma mi sa che non ce n'è, no. E quando c'è propagazione, qua sul 5 c'è un media brutto, oggi non c'è niente. Mi sa che non ce n'è, no. No, non c'è nessuno, no. Prova a farlo, a vedere se c'è qualcuno, ma non c'era nessuno, neanche sul 45 è girato, negli altri canali, non c'è un cane, oggi sono tutti in fissa. Domani sono tutti dormiti e non bisogna nessuno rubare. Io provo a fare un giro di canali, su canali alti, in banda laterale, mi vedo se c'è qualcuno. Prova, già sono qua io. Ok. Un mortorio, calma piatta. E poi chi c'è? Calma piatta, non vedi nessuno, nemmeno a fare di ex. Ma c'è nessuno, se te lo vedo, anche io ho provato a girare poco fa. Manco un'anima c'era, ma anche nei canali altri, nulla di nulla. E di certo l'ho lasciato acceso, così scalda un po', perché io anche se non entro molto forte lo accendo e lo lascio acceso su un canale. E più lo lascio sempre sul 5 o sul 45, poi quando entro da Cesuno se sto facendo cosa manco 100. E ascolto, la pizza se non lo lascio acceso. Eia. Non so se ti ricordi quel famoso, come si chiama quel baracchino? Il Tokai PV5024, quello che stavo corteggiando su internet, l'hanno poi venduto. E ti dirò, meglio così perché in fin dei conti avevano 23 canali, anzi 22 canali, più è vecchio di 40 anni, non lo so, forse con quella somma, con quel prezzo si possono prendere altri apparati nuovi. Infatti la roba vecchia non conviene comprarla, guarda, io qui ho questi due apparati, allora sono 33 anni sposato, oh. E c'erano già in casa una decina di anni fa questi apparati che ho io, che erano di mio fratello, si chiamava Matra di nominativo, allora, lui non ha più modulato e me li ha dati a me, tra cui io a casa di mamma, poi quando mi sono sposato me li ho portati qui. Li usavo un po', poi li ho conservati e non li ho più utilizzati. Poi quando sono andato in pensione mi ha stato rublesci, cioè un annetto, due annetti prima di andarmene in pensione l'ho riattivato. E ti dico, ne avevo due che si sono bruciati. Un portatile, quello era da mio fratello e non li usa neanche. E me ne sono pentito perché intanto ce l'ha nel cassetto, tanto male lo tenevo io qua nel cassetto, ma poi gli altri due li ho venduti, tutte le volte dovevo accendere quello, farlo funzionare, spegnere quello, attaccare quell'altro, insomma era matta a matta. Io ho tenuto questi due, quello della macchina e quello di campagna e blu, non li voglio bisso a bisso. Tanto non ne fai niente, poi ti devi vedere ma sanare se farlo funzionare, se non si rovinano da soli. Infatti gli altri due non li usavo mai, il giorno che li ho messi hanno funzionato due dì e si sono bruciati, così da soli. Dunque, mi tengo questi due blu. Anche io avevo apparati, erano di 15 anni fa, anche 16. Avevo un FM500S e un 548SX e un Connex 4000 Echo. Erano rimasti 15 anni fermi, senza scherzi. E credevo non funzionassero più. Invece poi li ho attaccati hanno funzionato normalmente. Vabbè, il Connex aveva già dei problemi da prima, e quindi erano già da fare 15 anni fa quelle, e l'ho fatto fare da una persona molto preparata, adesso è perfetto. Già bella perna, beh, perché c'è la passione, io già trovo la passione, ma per le tanti, alla fine dei conti, cosa ne fai? Tanto le ruote sono sempre quelle. Sta andando peggiorando, sono tutti fuggenti. Poi da quando è nato il computer, non so quanto ha passato il baracchino. Non è un'idea, oramai, tra telefonie, il computer, il baracchino, si l'hanno dimenticato tutti i gatti. Non è che... E poi sì, è bella per lì, però è un rompimento di scatola, è inutile che io ce l'ho quando me lo tengo dentro l'armadio, è una cosa me lo tengo a fare dentro l'armadio. Ma la tengo due e poi utilizzo e basta, cosa so che chi va a spendere soldi a comprare, per che cosa? Mi metto quello che compro e ci devo conservare quello che sto usando. Ma... lascio funzionare questo, sì, ma che funziona, ma quando si rompeva me ne confronto e Kappa, io li uso invece a rotazione gli apparati, tipo uso una settimana uno, una settimana l'altro, poi se vado in macchina mi porto l'altro ancora, capito? Anche in macchina li uso a rotazione, mi piace cambiare ogni tanto, però... ma piovendo sta? Adesso no, qua no perlomeno, tocco qua sì, stava piovendo, ho fatto 10 minuti di acqua, adesso no, alcune se li avevo così li adoperavo a rotazione, però è un rompimento, capito, mi hanno tuffato, attacca quello, attacca quell'altro, mi metto quello, no, quello là l'ho fatto funzionare avanti lì. Adesso mi tengo questi due e basta, non ne compro più. Sì, ma le due, ma questi mi tengo qui. Fatto nella ruota, non c'è più nessuno, cosa mi recupera già qua? Beh, anche quello è vero. Comunque qui ha piovuto, ha fatto una leggera spruzzata improvvisa con gocce grosse, gocce molto grosse. E adesso è già finito. E quella nuvola che passa le gocce grosse, ma neanche 10 minuti, ha tagliato per l'asfalto e per la secco, il giardino è secco, ma che rigori gli ha fatto, ma è arrivata a c'è la terra nel giardino perché ci sono gli alberi, figura, e basta. E dunque stavo dicendo che non ne vale più la pena, mi hai capito? Poi neanche a metterti quello letto, io non ce l'ho letto, la camera è, ma non mi piace nemmeno a trattarla, che uno che si fa questa voce così e poi non comprendi nulla, sì, io ce l'ho mio e appena sono le fatte e andare, l'importante mi sento bene. Lo so, la camera, ecco, tipo, anch'io io ho l'ecoselo solo su un apparato, ma è leggero, leggero, è apprezzabile, solo che per me è una cosa secondaria. Cioè l'eco proprio ci potrei rinunciare sempre, perché una cosa importante è avere un baracchino che riceva bene, che trasmetta bene, che sia completo, ma l'eco proprio non me ne ha fatti nulla. Io l'avevo preso per abbinarla a questo apparato, perché senza l'eco, l'alito dell'eco si abbassi. Sono anche lineare, però me l'ho venduto perché intanto non me ne basiano. Poi, dove arrivo, arrivo. Chi sento, sento. Chi non sento, non mi interessa. Ma... Stanotte invece ho avuto una notte un po' disturbata, ho dormito male da tardi, molto tardi, perché mi era venuto un flash durante la notte, mi dava l'impressione di aver dimenticato il computer piccolo, il tablet, al bar il giorno prima. Mi è venuto proprio un flash così e mi è salita la pressione, è venuto caldo, come se l'avessi dimenticato. Mi ho detto porca miseria. E invece, quindi ci ho dormito male la notte, no? Convinto di averlo perso. Poi invece sono andato oggi alle 9, sono sceso in macchina e in macchina c'era il computer messo sul sedile di dietro, capito? Ma ci stavo rimanendo così male, guarda. Ma tu non te ne devi mettere in macchina. Ho solo che si succedino di avanti, quando te ne scendi lo guidi, no? Questa la... non la lasciare mai in macchina di questa cosa. E poi ridorme la macchina. Ehi, pensa però che io credevo di averlo lasciato al bar. Al bar nei sedili di fuori, quindi figurati, il primo che passa poteva prenderlo, invece l'avevo già messo in macchina, capito? Non per tornare a casa, non me ne ricordavo io. Ma se fai cose così o ti prendi una di quelle specie di borse un pochettino grandetta, te lo vendo e lo metti lì dentro e te lo tieni a tracollo come fa mio nipote qua, fa la borsa a tracollo e quando la prende se lo mette lì dentro, se mette tra così dentro l'ha sempre appeso. Se per caso lo adotto, ma poi ce lo rimette lì, così non se lo dimentica già da nessuna parte. A te lo lasciavano se l'avessi lasciato lì al bar, e allora già l'hai trovato, domani. Lo so, comunque ci hai azzeccato, Il computer era dentro un borsello nero, e io mi ricordavo di averlo attaccato alla sedia del bar. E non mi ricordavo di averlo portato in macchina, capito? Invece era in macchina, era al sedile dietro, tutto bene. Meno male, guarda, perché stanotte ci sono rimasto così male che ce l'avevo con me stesso per essere così suonato, per averlo dimenticato. Invece già era a posto, tutto a posto. Ma in macchina non lo devi mai lasciare, manco portello, ma neanche chiave in vista, non lo devi lasciare. Oggi che è oggi, si attaccano a tutto, magari qualche giorno sarà con la macchina la tua. E ti dimentichi le chiavi, le vedono, te le rubano, e già ti costa, se non te ne accorgi, quando accorgersene, magari se l'hanno fatta anche la testa in casa. Ma cose che devi portare attaccate, se devi mettere un borsello, il borsello te lo tiene a tracollo, anche se sei fuori, se sei in casa di parente non ti conviene, ma neanche in casa di amici te lo tiene a tracollo, cosa ti noti? Perché, per dirti, mio fratello, quello grande, tanti anni fa, aveva ritirato lo stipendio, l'hanno invitato in questa casa, lui e altri amici sono andati, lui ci aveva soprabito, quando è arrivata era l'inverno, se l'ha levata e l'ha preso nell'ingresso dove si va a pigliare. E in tasca ci aveva lasciato la busta paga con tutti su. Dice quando se n'è andata che è arrivata a casa, va a prendere la busta da il soprabito e non c'era la busta di su. E cosa facevi? Non mica potevi cercare di incolpare la gente che c'era lì. Se tu non l'hai visto non puoi incolpare a nessuno, perché ti avrebbe detto, poi se l'hai perso venendo qua, hai capito? E ci ha rimesso lo stipendio intero. Il cacchio. Certo che c'era nel soprabito bella gente. Brutta roba quella, eh. Ed era un compleanno, mi sembra, una festa, insomma, in casa di colleghi suoi di lavoro stesso, perché faceva il commesso al banco, fece il ricambio, quando c'era Cesare Tamba via Napoli, lavorava lì, fece il ricambio di macchine vendevano, e lui era primo commesso al banco. Ed era ben pagato, mi disse il figlio, prendeva più il babbo anche, figura. Pregato gliel'hanno, e beh, cosa faceva? Mica potevi dire me l'avete fregato qua, non lo puoi dire, se tu non lo vedi non lo puoi dire. E intanto gli hanno fregato lo stipendio da quella casa, da amici sempre. Dunque. Sì, capita. Io avevo un amico che era amico quanto voi. Invitava sempre, ti offriva roba, però non gli dovevi mettere niente in mano di soldi. Se gli mettevi i soldi in mano, boh, spariti. Sì, è capitato anche a me quando avevo 18 anni, avevo il vestino, lavoravo come pompista al rifornitore alla Budivugi lì all'Agipi, quello vicino al Bagratella. C'ero 5 anni lì da ragazzo lavorando, a parte che era mio padrino il principale. Lui me lo voleva dare a me in gestione, io scemo. Non me ne ho preso, me ne ero partito volontario in marina e non me l'ho preso e me ne sono pentito. E c'era questo amico mio che frequentava molto con me e gli dava la moto, perché lui molto non è avverso. Scende da qui al distributore e diceva, ah, pensate, io stavo lavorando e lui ce ne andava in giro. Poi la sera veniva, mi prendeva, andava a casa, mi cambiavo, mi lavavo e ci usciva insieme. Beh, lo sai che un giorno mi sono sparito il mazzo delle chiavi della moto e del garage, perché la lasciavo via Torino, nel garage di mio padrino, perché sotto a casa non facevo a lasciarlo, il garage non aveva, allora la lasciavo. Beh, lo sai, con tutto il valore che c'era in quel magazzino, Julio, tutti gli assessori per la macchina, me ha fregato la moto. Beh, ma che capita? A noi invece ci avevano rubato la macchina una volta, la Fiat 1, e pensa che io erano le 10:30 di sera e ho detto, caspita, mi sono dimenticato di mettere il blocco esterno alla macchina, quello meccanico, no, quello esterno. Allora ho detto vado e lo metto, vado alla macchina, fuori, non in garage, fuori in strada, e la macchina non c'era più. Praticamente erano venuti prima delle 10:30 e si sono fregati la macchina. Sì, già lo credo, ma Giulia, lo fanno, ma lo sai qua dove abito io. Quanto ne vedo macchine che prima si giocano, pensano, fanno stesse cose, sgommano, poi si iniziano la benzina, c'è chi la abbandona così e c'è chi li mette a fuoco, c'è chi ce li butta dalla scalinata e ci vanno a finire nella piazza. È all'ordine del giorno qua, ma se ne roba da poco qua sotto la finestra. sotto Valdovello. L'arrivata a mille pezzi, venivano e ne giravano i bici, sino che c'è rimasta solo la carrozzeria. E i ragazzini si sono messi a tirare pietra, a saltarci sopra, l'hanno distrutta. Dopo un due anni l'hanno portata via. Dunque, se noi non parliamo di Moltovino è pieno qua, si butta questa roba fregata. Noi l'abbiamo ritrovata la macchina in una via della Teodolce, non mi ricordo il nome della via, vicino a un incrocio. Aveva la frizione distrutta, perché sicuramente avranno sgommato, avranno sfrizionato, no? E la frizione era distrutta. E poi aveva dei graffi sul cofano, gli hanno graffiato apposta il cofano, capito? Quindi non si poteva muovere perché la frizione era proprio scoppiata da quanto l'hanno riscaldata. L'abbiamo portata col carro, poi l'abbiamo aggiustata, solo che la guarnizione della testata non è durata molto, sicuramente l'hanno surriscaldata quella macchina. Avranno fatto gincare queste cose qua dentro di notte, allora quanto la sento sgommate su al latte dolce, più giù. Molte volte senti anche boom, si sbatto, e se non funziona più la molla non dico dove se ne va, ma è all'ordine del giorno, si può dire qua. La macchina è meglio avere sopra un garage. Beccali è flagrante, guarda. Se li avessi trovati e prendo la macchina, dentro la macchina, cazzo, non so se l'avrei fatto. Gli avrei spaccato in testa il bloccassetto in ferro. Gli avrei troncato in attalo gusto. Ma il fatto che non li trovi mai sul fatto, perché ti tentano loro. Tu mi hai fatto un accorgio, però già ti stanno controllando. Come ti figlia, però appena ti fanno la stessa. Adesso per dirtene un'altra. Sono arrivato da lavoro, ho parcheggiato la macchina, dove ci ho messo mezz'ora a lavarmi, a cambiarmi, a scendere giù, c'era il vetro dove sempre l'ho staccato e ci mancava lo stesso. Ecco, in mezz'ora e la macchina era sotto casa, e nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Quella è una volta. Un'altra volta vengo, parcheggio, salgo 10 minuti a prendere cosa, se io devo riuscire, scendo, tutte e quattro le gomme strappate, non bucate, strappate. E allora, e anche certo, e nessuno ha visto nulla. Come sempre, nessuno vede mai niente. Ma una volta ho visto rubare una macchina qua sotto, ho chiamato la polizia, li hanno presi. Ho dovuto anche testimoniare in questura, ma al tribunale. E un tossico era, un tossico l'ha rubata così per farsi un giro. Poveraccio, poi è morto poco tempo dopo, perché era... è sempre tossico, ubriaco, capito? È morto insomma. Ma tutti lo pregano per prenderseli. Io ho visto gente fregando, che sai quanto ne ho visto, però conviene sempre fare l'indifferente, perché intanto poi sapevo che sei stato tu a chiamare la polizia, perché ma no, tu non li vedi, ma già ti vedono loro, capito? Perché chi va così non è mai a solo, c'hanno sempre la vedetta, tu non la vedi, però già ti vedono loro, hai capito? Mi ricordo che quello lì non è nemmeno andato in galera. Abbiamo fatto il processo, l'hanno condannato e poi era fuori, era sempre fuori e girava in questa zona. Infatti un giorno è passato con gli amici, con un amico, no? L'onfio come lui, e gli ha indicato la finestra mia, no? Allora mi sono affacciato e gli ho detto, vabbè, cosa vai? Lui ha zittito, ha abbassato lo sguardo e se n'è andato con questo amico. Però ho capito, stavano già indicando la finestra e il portone. Perché tu la male là o là sta trattando a pagare, mi dice, hai capito come la cosa? Una maniera all'altra, lo trovano loro il coso per farsela pagare, hai capito? È pericoloso, ma so quanto lo vedo io, ma non me la fissi nulla, intanto poi non le fanno nulla, cioè non gliel'ha fatto niente, tanto non le vado nulla il cagliente. Tanto vale, mi faccio fatti miei, non me ne ho tutti. Mi ricordo che il primo giorno della sentenza della tribunale era a testa bassa, con la faccia in giù, non alzava mai la testa. Invece la volta successiva il tribunale stava guardando e mi guardava male, no? Mi guardava con odio. E io me lo guardavo, a vai da temi. Comunque, come vedi, non hanno fatto niente, non hanno fatto nessuna ripercussione, niente, perché tanto poi vado a cercarlo io, che era tipo di zona, capito? Girava in zona. Non ho fatto niente a te, Muxi, però voi sapete già, non se ne dimentica, non hai capito, solo che adesso è morto, è logico, no? Non te la fate ne parlare, l'occhia, ho visto i colori io, forza, già, tu l'hai scegliato la casa, mi gusta io, contro il vento, ma cosa ne accorgi tu? Io ho il grilletto facile. Guarda che anche molta gente così, già ce l'hanno anche loro il grilletto facile. Qui l'altra volta c'era il Far West, era uscito pure in giornale, era uscito. Chi ti vuole la pistola, chi ti vuole i cugini, Che poi mi? Questo ragazzo comunque è morto molto tempo dopo, tanti anni dopo è morto, non sapevo nemmeno, me l'hanno detto a me. Questo ragazzo la prima volta era con un coltello vicino a casa e lo faceva vedere a tutti i suoi amici, no? Un bel coltello anche grosso. Io gli avevo chiamato la polizia. La polizia gli ha chiesto, beh, questo coltello? Lui, no, non ha giù il coltello io. Mica ce l'hai, mica c'ha la fine. Lui l'ha fatto vedere alla polizia e dice, perché ce l'hai? No, ma lo stavo portando a fare affilare. E loro non ci hanno creduto, alla fine l'hanno caricato e l'hanno portato in questura. Non gli hanno fatto niente, mi hanno fatto il tracciatone e gli hanno sequestrato. Era un tipo strano. Una volta invece l'ho visto fuori con quei bastoni giapponesi, non chaku, non so se ce li presenti, sono praticamente due bastoni corti e in mezzo ci hanno la catena per unirli. Già lo conosco. Ma sai cos'è il fatto? Che non li fanno niente a questa gente, solo qui non c'hanno niente da fare la pulizia, hai capito? Dunque li lasciano andare, lì si insegnano, però non li fanno niente. Hai capito com'è la situazione? Poi se non ho capito male, in Italia finché non raggiungi 3 anni di pena non ne fai galera, devi fare reati, vari reati fino a raggiungere 3 anni di galera, quando c'è 3 anni ti mettono dentro, così sapevo io. Se c'è molti precedenti, poi loro controllano, allora già ti prendono, ma altri gli fanno fare una lettera, così, poi cominciano per buona condotta, e gli seguito, e magari manco ne vado, a chi ne vado in borsa se ne mandano agli arresti domiciliari, se gli dice di Roma a te, tanto non gliene frega niente. Anzi, quando sono lì in maggio le dormono gratis e ingrassano. anestesia, anche per il sovraffollamento li mandano via. Adesso c'è questo carcere più moderno, magari stanno anche meglio, ci avranno la televisione, magari il computer nella stanza delle di ricreazione, capito? Come una scuola, come l'asilo è. C'hanno la TV, il computer, tutto quanto vanno. Ma il capito da lì oggi fanno bene, sono da signori, non solo. E se tu lì svolgi mansioni lavorative in cucina o a pulire o a pincheggiare, queste cose così, sei pagato, c'hai anche le marchette versate e quelle sono meglio delle tue che lavori fuori le marchette, perché sono marchette fattate. Io sono sentito che la faccia ne ha fatto anni di galera, però con quegli anni di galera lo sai cosa c'è? La campagna, la villetta e la piscina, con i soldi lavorati dentro, hai capito? E qui c'è l'appartamento in città. Capito, poverasino, cesh. Vabbè, vuol dire che farò il delinquente anch'io. Vabbè, arrivata a un certo punto uno se non trova lavoro, cosa deve fare? E questo non sarà più di affamare. Era sempre entra, esce. Poi se l'ha fatto alcuni anni di continuo, mi sembra 3 o 4 anni, poi è uscito, si è ritirato il soldo e si è comprato la campagna. Con la casetta lì si è fatto la piscina e lì si è comprato l'appartamento in città. Hai capito? Ehi, ho capito. Comunque anche a me hanno rubato l'autoradio. Mi pare 2 volte. Vabbè che erano autoradio, non valevano niente mi, erano autoradio le Majestic da 2 lire. Addirittura una volta mano preso l'autoradio e i fili, anziché lasciarli scoperti, quindi con rischio di incendio, me li hanno belli isolati. Erano tutti isolati in modo da non prendere fuoco nulla. Capito, ma l'ho fatto a quella cortesia. No, il mio, quando me l'hanno pregato, anche le colonie hanno fatto la tracciatura, si sono anche tagliati, perché c'era il cruscotto, tutto sporco di sangue, i pannelli degli sportelli, perché me l'hanno tracciato anche le colonie, non le hanno svitate, tutta tracciatura. E si sono fatti burumare, dicevate, qualche taglio bello grosso già se l'hanno fatto. E però non mi interessava tanto quanto, tanto i colorini erano di televisione. Era bello solo la placca esterna, quelle le avevo procurate, erano belle, come secca, però all'interno la colonnina era di televisione, giù con macchina tutti, non ci via la nuda. Però il copricolonino era bello, come secca, ci sono tutti i bulvari che hanno l'Iran trattato. Magari loro si credevano che dietro c'era la colonnina con i suiti e si sembrava le guardie, no? Invece si sarebbe trovati anche male. Cappa. No, da me hanno preso solo l'autoradio, ma hanno fatto tutto bene, mi. Hanno tolto il nastro isolante, hanno slegato i fili, poi hanno rimesso il nastro isolante sui fili, che era l'impianto elettrico era migliore di quanto di quando ce l'avevo io, capito? Poi mi è venuta in mente una cosa, che fosse un certo amico che avevo, che era poverissimo. Chissà perché ho pensato a lui, è uno povero che ha bisogno di soldi e non sia che me l'abbia vista e l'abbia presa e mi abbia messo i fili a posto per evitare incendi, ho pensato a lui anche. Sono sicuro che perché un ladro si mette lì a pensare a isolarsi i fili bene, un ladro ruba e non ne frega niente. Magari se ne ha pigliato il brutto visto, però conoscendoti, ossia se si cingiava la macchina, se li aveva isolati, sì. E sarà fatto in su, dico cosa vuoi che l'abbiamo fatto. se l'avrà dato, se l'ha molto sopportato la valigia, minimo 10.000 lire gli avranno dato. Allora, cosa le pagate gli autorali a fregato? La quota era 10-15.000 lire, non di più. E poi quell'autoradio era tutta mancia male, era, poi erano quelle che nuove costavano 30 euro, figurati, quelle Majestic da 30 euro, no, semplici, che c'erano la radio e la cassetta, quindi se te la vedi seconda mano 10.000 lire ti danno e basta. Vabbè, e adesso invece nella Opel c'è l'autoradio che è integrata nel cruscotto, se vogliamo prendere l'autoradio è tutt'uno con il cruscotto praticamente. E come la mia, io non me l'ho mai cambiato, non mi interessa, c'è sempre, l'avevo fatto quando ho comprato la macchina, farmi l'impianto e piazzarmi lo stereo con totalino estraibile. 500.000 lire la bocca a parte con l'impianto, con lo stereo, ed è rimasto pure con lo stereo, però è stereo 7, però non ne lascio mai io in vista, no? Lo metto nel cruscotto, già che non lo tratto mai, ma qualche volta così la metto, tanto mi fallo funzionare. E poi quando ho lavorato come autista da marchetto lì al parrucchietto a rottamare le macchine, dopo rottamano le macchine, allora sai quando rimane pulito e pulito all'ora di pranzo, dopo che pranzavo mi guardavo tutte le macchine che c'erano da rimulire, c'erano proprio due sacchi di stereo, colonnine di tutte le marche. Poi un giorno mi sono rotto la scatola e ci ho buttato tutto la garage. Anzi, uno che l'ho trovato ultimamente, ne ha ancora un altro, che non mette funzione in garage con un alimentatore. E io ho sempre tutto da averne. Ne ho trovato uno ultimamente, c'è trovato la bombetta e ce l'ho portata lì al piduccio. Si è pigliato tutto il cabrocco. Mi sono dato un 30 euro, ma guarda tutta questa mondezza che ho trovato in galassia, eppure se l'ha presa. Da chi l'hai portata hai detto? Dal bidocchio? La pulce, quello che c'è a Pardaneta, quel capannone, che compra usato e vende usato. Ah, il mercato delle pulci, mamma mia, ci sono stato da poco dentro, ma è multinaggio, sembra una discarica, tutta roba vecchia, mancante di pezzi, rovinata, quella non è roba da comprare, no, non mi è piaciuto niente a me, anche i videoregistratori, ho guardato le testine, erano tutte sporche, tutte gialle, e quella è roba che non funziona, alle volte. Tutto. Trovare l'occasione al volo, come l'ho trovata io, c'era un tipo che ha portato una taglierina di falegnameria, ma buona, mi di marca, della Felizzatti. È grande, è normale, la usi per come troncatrice 45 gradi, fai. Nuova. Ho preso e me l'ho comprato al volo, come se l'ha dato quello, gli ho detto 4,30, no, 3 pugnali, sì, perché quello là gli ha dato 10 IVA, capito? Allora ha messo 25 per aprire, e te glielo ho dato e me l'ho portato via. Però è nuova, il disco è nuovo, solo il disco costa quella cifra così, 20-30 euro. E me l'ho comprata al volo, lì devi trovare le occasioni al volo. Eia, tanti chi vuole entrare? Il maniaco. Ecco un altro che non è andato da nessuna parte. Il cazzoniaco, levito, l'acqua che ha fatto qua. E anche qua ha piovuto appena, buonasera. Io non sono uscito perché non voglio vedere casino, non voglio traffico al ritorno. Già ci vado gli altri giorni, in giro. Ciao Antonello, a Cucuzzi l'andemmo. Non mi piace la vetta, è la poca andare con cui ci abbiamo. Lui ci ha fatto una bella passata di fumi e tuoni dalla parte di Ussi Pissi. E beh, se non li mangia, chi ha li mangio? Si li fa mendina. Tu non ti schifo raccogliere, guarda. Prima ti ripagliano tutti i pantaloni. Poi devi raccogliere, vabbè, già vendono, va. Come a vedere già vendo. Ti metto un paio di stivali, un pantalone di quelli scassacqua, i guanti quelli celesti, e non ti brutti nulla, quando hai finito ti rivolgo le guanti a se li lampi, ti rivolgo le stivali, un pantalone, e se non prendi ti farà zurrata, altro che zurrata, o no? Quindi bisogna andare a Cucca, bisogna andare, lì ci sono parecchie cucuri di tutto, c'è, ma anche grosse, qua non è nulla, da voi ci sia qua. E beh, ci devi spostare, non vengo mai andati, ma coprita avrei fra pochi, ci sono mai anni tutto. Appunto per quello. Antonesci, è andato alle bancarelle ieri, o alla cavalcata? Cavalcata, avete cavalcare qua? No, non sono andato a mancare in nessun posto, ero in giro ieri sera. Ah, Guscie. E cosa vado a fare? Avevo il casino. Sono abituato 4 anni a vedere quel casino lì della scesa dei candelieri. Figurati se vado alle bancarelle a comprarmi schifezze, non saranno. Tu non era la cavalcata, sono i gandarini. Ma scusa, ho sbagliato, la cavalcata, va. Fuso sono, amico. Già si nota, tu sei andato sì, io sei andato alle 5 stamattina. Io? Vedi sotto il tuo cinotte. No, Antonio, non sono uscito, no. Anzi, ho dormito male per altri motivi. Alle 5 ero sveglio, ti dico solo quello. Ero a letto ma sveglio. E cos'è? Te sei andata alla ragazza che c'avevi vicino al fianco? Riprendo subito, riprendo Antonio. Ehi, amata, grazie, non c'è problema. Sei rifugita alla ragazza che c'avevi vicino, Marco. No, magari. Praticamente di notte tardi, verso le 4:30, mi è venuto un flash. Mi sono ricordato, o meno, credevo di aver lasciato il tablet col borsello al bar di pomeriggio, ero andato in un bar. Mi è venuto un flash proprio, cazzo, ho detto, non c'è il computer, il tablet a casa, devo averlo lasciato al bar. E mi è venuto sudorazione e mi è salita la pressione. E allora ho detto, cazzo, disperato ero. Se non che, poi alla fine sono riuscito ad addormentarmi, stamattina alle 9 vado in macchina e per fortuna ero in macchina. Questo sta già rincoglionendo, cazzo, bro. Chissà cosa stai facendo il giorno prima. Qua ero convinto di averlo lasciato al bar, non so perché. Invece, come vedi, è uno scherzo della memoria, perché era in macchina. Anche perché il tablet non è mio, è di mamma, l'ha pagato lei, capito? Quindi mi avrebbe rotto il culo se l'avessi perso. Sì, vabbè, costa 109 euro a comprarlo, già l'hai visto, da poco. Non costa neanche molto. Meno coso mangi, meno ravioli e bistecche, lo compri subito. No, questo nostro costa 179 euro perché ha il 3G, la connessione telefonica, no? Con la SIM per entrare in internet. Già lo so. È tipo quello che la tua a cosa mi riporta. Dunque io ho il 2, quello che c'è il 2 e il 3. Io sono wifi, andavo e basta, dopo mi mettete attaccato alla finestra. come così. Ho acceso per vedere chi c'era, e di tono portante era Graziano. Per il resto è deserto, anche in banda amatoriale, almeno era deserto. C'era solo qualche disperato, sai dove, in banda 431-2375. Il ponte Cisar, c'era qualcuno. Ehi, battimo che usa le luci, gli apparecchi. Sono tutti fuori, chi al mare, chi in montagna, capito? E che se ne sta a casa, giù non ricordo. Vabbè, io sono stato a casa perché la letta non buia. Ero in giro ieri, sono diventato tardi. Stamattina mi ha telefonato Giuseppe Bettelli e mi ha invitato a casa sua. Ho detto, non ci vengo, ho detto, Mi è arrivato a casa, mi sono fatto un chilo di sardine, me l'ha fatto fuori, nel terrazzino, me l'ho cucinato con un coso arrosto, mi sono bevuto la birra e poi mi sono riposato. Gaba, gaba, ok. Adesso mi dedico un po' al computer, ieri stavo pensando a te invece per quell'ineare lì, che te lo devo sempre portare. Te l'ho detto, salima, ok, sono sicuro, magari se ti saltato una resistenza non c'è niente, fottitini. Non penso sia bruciato il finale, anche perché è impossibile, capito? Sensato se ti salta fare resistenza perché è scaldato troppo. Addirittura pensa che era ancora freddo, non era scaldato. E stazionarie non ne ho, perché l'ho provato sul 40, sul 20 e sull'1. Sull'1 c'ho 1,3 e basta. Quindi non è il finale, no? No, c'è un fatto che si è stata la resistenza. Come è successo qua alla volta lì, che ha detto cazzo. Che cavolo, ho detto non funziona più. E non ha bagno, ho detto cazzo, appena sistemato le cose. E invece controllo c'era un falso contatto, c'era nello stampato. Succede, me non è che non succeda, figurati. Chiedi il conto a Leoncino. Via. E ha fame, poveraccio, lui io ha fame, anche perché non ho ritirato quasi nulla questo mese. Il discorso è quello. Vabbè, io mi sei rifatto pagare. Da lui però, capito? Perché chi vende deve controllare che l'oggetto sia in perfette condizioni di funzionamento, non così, no? Ehi, vabbè, l'ho fatto perché era amico, come sei amico anche tu, l'ho fatto più che altro per favore a tutti e due. Non è che me ne frega nulla, a me non mi entra niente in tasca. Tu figurati che io avevo da incassare i soldi già da un mese e mezzo di tardassendo e ancora non ho incassato niente. Gli ho detto compra il palo, compra l'antenna, e la fine dell'antenna, appena ce l'abbiamo, ho detto ora la installiamo sopra, gli ho detto che non ti preoccupare di quelli adesso. Basta che tu curi i tuoi soldi per comprare il palo l'antenna, mi piace solo quello. Il volo che arrivi a Sassari. E basta. Figurati, non è che sto pensando a quello, è il periodo di crisi, quindi cioè, se non ci aiutiamo tra noi, che cazzo vuoi scegliere tutti in comune? Chi è quello di segno di quel ragazzo che ha parlato con noi quel giorno? E quando va a comprare quel lineare appagherò, quello di Giuseppe. La miseria. Potremmo lasciarlo a lui, così le rogne erano le sue. A me lui. E ti pigliavi l'altro al limite tu. Allora, ti ricordi il Tokai 5024 che vendevano su internet? L'hanno venduto, uno l'ha preso. E da dove vai, lui? Lascia perdere, guarda, meglio... La roba così, meglio... Cioè, se la seconda mano non conto. Se dopo, guarda, è un altro discorso, però la seconda mano non sai cosa più, già lo sai, più di me. Lo so bene. Ma infatti sono contento che l'abbia preso qualcun altro. E invece, Antone, è nuovo, c'è roba nuova che ti costa quasi lo stesso prezzo. stanno dando, per esempio, l'Intec 4,90, l'Intec M4,90 Plus, mi pare a 100 euro, o 90 euro, non mi ricordo, spedizione compresa, ed è un apparato 40 canali MFM, molti standard, quindi più andare a modulare su in altre frequenze di altri paesi. C'ha i canali in memoria, c'ha il dual watch, c'ha la scansione, c'ha un bel di roba. Ha l'ESP Commander per la compressione, sarebbe lì. Ho capito. Quello da prendere, è un'occasione quella. Se non è nuovo, è da prendere quella. Eia, è nuovo, c'era scritto ultimi pezzi, offerta ultimi pezzi. L'Intec M490 Plus. Vedi, quello da prendere. Quindi non ci sono problemi. Peccato. A volte con le offerte non siamo i soli. Quando siamo i soli non sono le offerte. Eia. Ovviamente si può ampliare a 400 canali, come sempre. Perché poi non c'è gusto avere troppi canali. Noi siamo sempre al 5 o il 10, il 12, il 14 al limite. Certe volte, tanto mi Antonio, è inutile avere un apparato che è a MFM con 400 canali. Non puoi fare DX sui canali alti, non puoi fare niente. Vabbè, anche il DX deve fare, ma comunque non c'è nessuno, il discorso è quello qua. Non c'è più gusto, capito, usare il baracchino, anche perché già cioè, stasera non c'è più nessuno, vai magari in qualche altro paese altrettanto, a Rubia è già 3 anni che non c'è alcun cane, credo che parli a baracchino. Figurati, ormai tutti usano il telefonino, chi si usa il PMR, capito? È pieno di gente in PMR, ormai per 30 anni non si comprano quelli, perché stanno pubblicizzando più quelli che i baracchini. Eppure Antone, io quando esco in macchina porto lo scanner con la frequenza anche PMR, o in casa anche, faccio scansione, non c'è mai nessuno Antone, non c'è mai nessuno, io non sento nessuno. E c'è il centro del Padre del Monte, è pieno di ragazzini e ragazzine, non ti preoccupare, anche qua. Qua ci sono quelli che lavorano qui nelle, come si chiama, nelle... Come stanno costruendo, mi usano quelli, la usano i PMR per dire, la mattina li senti anche fino alle 5, che sono 4 canali, sono pieni. Allora, qua in zona c'è a Luna e Sole un ragazzino che fa casino in PMR, ma è piccolo lì, credo sia un bambino di 5-6 anni, fa un abulotto nero, una volta è entrato il padre a parlare con lui. E secondo me non c'è più il padre, perché diceva al figlio, attenzione, coso, cambio. Ecco, quindi vedete che siamo in CP, ho quasi un buon camionista, non so. Invece, poi, aspetta, fammi pensare, l'altro giorno ho chiamato questi, che erano forti, e ho detto, si può avere un controllo radio? E lui, sì, arrivi bene, ed erano, credo, i muratori che stanno lavorando qua a fianco. Ah, è vero, c'è gente comunque, sono quelli, capito? Sono pubblicizzati per 30 euro cosa vuole la coppia. Ci sono anche da coso. Come si dice? Sono per la niente, ci so. Li ho visti da poco belli. Vaffanculo, cazzo. Se mi viene in mente il nome. Guarda, gli altri sono più banali, quelli che ho, tipo l'FXD, i Prondi FX10, no. Quelli migliori che ho sono l'Intec MT5050 e poi il Prondi FX Dynamic, che ha lo stesso 2 o 3 watt di potenza, no, 1,8 watt palle. Ricordati, loro dicono 3 watt, sono ERP, in realtà sono 1,8 watt, ottima modulazione, ottima ricezione, solo che non ha i canali LPT. Tu hai già abbassato otto canali IPM e voi hai abbassato, lei vedete che c'è, basta avanza. Ok. Graziano. Dimmi meglio di oggi, cosa hai fatto, Antone? Mi sono cucinato le sardine prima che ne scendesse l'aria. No. Io ho fatto la metà di porcetto con le patate nel forno, poi le cozze a una parte con il limone, le cozze nel sugo, poi mi faccio le barrette e me le condisco con le cozze e il sugo. E poi cosa si fa? Ah, poi c'ho la mozzarella, quella, la treccia là, fatta in casa, una treccia lunga. La mozzarella di quella, di bussola, però è fatta a treccia, e a moglie in leva, e con due riprese alla sarda, di quelle che l'avevo fatto io, il baratto, e soprattutto il baratto è mia. Hai voglia, hai mangiato bene allora. Vista, io me la sono mangiato stamattina, ho visto quell'aria strana fresca tutta la mattina, io ho detto stasera vedrai che piove, invece c'è gente che è andata a fare una lì a cucinare. Meglio che abbia bevuto qui che in pineta, se no lì fuggi lì. Oh, là. Lei è una pesa andata, perché è stato lo sapevo? La dici Barroso, o piovi, o fa vento, vi ha fregato gli ultimi due anni, l'anno precedente aveva fatto un vento e non si buoni manca a mantenere piazza che si bussava a sé e mangiava in sabbia. Il secondo anno ha preso, ne farà dare, a dire sotto l'ombrellone faria ancora bruga chi passava le barmate. Ha detto perché non mi butti, mi dico in casa e mangio qui. Mi ha fatto bene qua, anche perché è nuvoloso tutto, la verità è salute piove. E non ho segnato più, già figurati, manco. Neanche la RAI ha segnato pioggia, è strano che abbia fatto una cosa del genere oggi. Evidentemente l'aria è talmente, cioè l'aria, il mare è talmente caldo che ha trovato qualche cosa di freddo sopra e sono formate questi nuvoloni temporalischi. E allora, no, non mi butti di, ma infatti io lo sapevo, già stamani me l'ha prendata l'aria. Sì, o allora di mangiare, o stasera l'aria ne buona, e infatti non mi sono sbagliato. Marco è già andato a Pattamola, così Marco, Pattamola è andato sì. No, non esiste proprio, ce lo siamo passato in casa. Gli altri anni andavamo in campagna da mia zia, però siccome abbiamo un po' rotto i ponti, per adesso i rapporti sono di ostilità, allora niente da fare. Ah, per quello, quindi sei rimasto tutta la sera a casa, non ti sei commosso per niente. Tu invece, cosa hai bevuto insieme alle sardine? La birra, perché? È male, con la pesce ci vuole il vino bianco. La puttinuta già c'è la birra fresca, altro che il vino era, capita? Poi già mi sono mangiato il gelato poco fa con mia moglie, ho mangiato bene una pesca a luglia oggi. Ma siete soli o c'è anche Giovanna e compagni? Quei meloncini piccolini rotondi gialli, un bei fiumi e le pesche e le pere come frutta. che hai da tutto poco, ho buttato questo tranquillo. E la mia moglie che era malattuta, allora, troppo bene. Ah, ecco, stiamo adesso, ti tocca, è chiuso in bellezza. E allora, è passato il paradosso, ma molto ci fu, vero Marco? Eia, poi per me è un giorno come tutti gli altri, siccome io sono abbastanza libero di andare al mare quando voglio, no? Per me non cambia molto, insomma, un giorno come un altro. Antonio, avevo chiesto, ma se eravate soli o era arrivata Giovanna e i compagni? No, soli siamo. Io, Simona, e poi c'è il guardiano Scoopy, mi sono parlato qua su a farmi compagnia. E loro dove sono andati? Al mare stamattina alle 6:30 sono. Su Facebook c'è scritto così, c'è che andava al mare a prendersi il posto alle 6:30. Vai, vai, ho detto. Come il mezzo io alle 6:30. Gesù Maria, alle 6:30. È pur vero che il Ferragosto si alza presto la gente, invade le spiagge e le pinette da presto. Comunque a me piace mangiare in pinetta, mi piace molto. In mezzo al verde, al riparo anche dal sole, bello, al fresco. Però quest'anno niente. Marco! E io? Un anno adesso che mi hai ricordato. Ero lì, in pinetta, lì alla Marina di Sorso. La sera, bello, tranquillo, apparecchiamo, all'ora di cena, c'era ancora la luce. A un certo tratto, guarda, era tutto bello, apparecchiato sul tavolo, si bisogna mangiare, ne arrivi ghiscia ondata di galabrone, bubone, tutti dritti arrabbiati, in capo di sicuriali, siamo bucciti, attore. E capi mangiava qui. Tutto hanno invaso. Dopo sono andato a rifugiarsi in pinetta, là, negli anni. Quindi così poco da arrivare a faccia, a capo, a tutti i baci. Tutto sarà arruinato. Avete fatto bene a allontanarvi, perché quando le vespe e i calabroni mangiano, se voi andate a disturbarli diventano aggressivi. Che avremmo volato di dire se siamo fuggiti. Dopo fuggita la strada. Dopo di un'oretta siamo andati a controllare e già c'era qualche giù. Allora sotto ne ho tirato la sedia, il capo, capito. E tutta la tovaglia, tutto il resto è rimasto lì, e ora ti voglio accoglienza, e a finire le boccoglie. Lo so, sono terribili, allora sai cosa dovete fare? Prendete un bicchiere, già lo saprai, prendete un bicchiere di carta, non di plastica, mettete mezzo bicchiere di vino, poi mettete dello zucchero e mischiate, se lo mettete lontano da voi, almeno 50 metri, anche di più, e loro vengono attirate da questa roba dolce e si filano il bicchiere e rimangono anche appiccicate. Lo so, però io in genere ci metto sempre cosa dolce, ho lanciato Coca-Cola e vanno tutti là. E chi ti veniva, cosa ti... un lupolone era, non erano una cinquantina, un lupolone nero. Mamma mia, è pericoloso così, mi. E ti sto dicendo, siamo fuggiti alla strada, alla macchina, era pieno, un lupolone era. Si stavano cercando il riparo per la notte del essere l'infinito. E se capitati propinando a noi. Così fanno a pomponio, mi lo pongono sul pisello. E te fresco tu, mi pongono a me. L'infinito lo sai, la prima cosa che non devi mai cucinare né sardine né pesce, cioè né sardine né pesce, ti troverò carne, solo sei fregato. Invece, Antonio, un altro anno stavo mettendo il catrame sopra un capannone, a Platavona, lì a Serralonga. Che salgo il rutto, bello tranquillo, ci salgo il cannello. Poi non mi ricordo cosa mi avevo dimenticato, sono sceso, prima la scala, poi la tasca. Ricordo quando arrivo al bordo, vedo proprio salire. Ti vedo questo rumore, sento no, non facevi neanche tempo a fuggire, allora mi sono rimasto a faccia in giù con le mani in testa, sono rimasto immobile tra il tetto e la scala, fermo lì, si sono tutti accarati innanzi a me, sono rimasto nel buscio lì un 5 minuti, una cosa del genere, tutti addosso ce l'avevo. Poi altre volte si sono salvati tutti in aria, hanno fatto una specie di onda, ha riportato la palla e si sono atterrati nella campagna che c'era lì di fronte. Cagato io. Ce lo credo, è poco le temo io l'ho assaggiata già due volte la puntura della Vespa almeno, là. È una Vespa piccola, pensa al calabrone che ha la culia molto più grossa e ha molto più veleno. E noi mi sono rimasto immobile, fermo, quasi non stavo neanche respirando. Immobile, se la volti addosso sul capannone, sulla scala, a milioni mi ce n'era. Però non faccio per tempo a fuggire perché tutti mi seguivano, allora era pizza. Allora mi sono bloccato lì, fermo. Tutti addosso, tutti usci. E invece si sono alzati in volo, hanno formato una palla e si sono accavati nella campagna. Meno male, ti è andata bene, dai. L'importante è rimanere immobili, perché molti hanno paura, no? Cominciano a dargli colpi e così è peggio. Ma no, che già lo sapevo io di fare qui, l'avevo visto un documentario tanti anni fa al televisore, un tipo che andava in giro, no, nei boschi, nelle montagne, da solo, per sopravvivere, adesso non hanno più dato di quel documentario, la sopravvivenza, si mangiava di giusto, cavalletti, tutto lì si barattava. La sala la gorsetta di alberi morti, si mangiava tutti quegli animali che c'erano sotto, pisciava in un barattolo e poi si beveva l'urina quando non trovava acqua. Allora qui c'era quel tipo di consigli che davano, dava dei consigli come comportarsi. E già me lo sapevo ricordare, se è stata la stessa cosa che ha fatto quello, mi sono rimasto immobile. E poi se ne sono andato. E quello sai chi è? Bears Grill. No, Bear Grills. Proprio quello, quello non gli hanno più dati quei programmi lì. E già se la non sta interessante. Tu ancora non la metti. Antonella, l'hai mai visto Bear Grills? Antonello ti ha parato, allo fumo. Antonello ha passato al gusto della chiusa o della traiera. La bionda. Attenta a non troppare, respira Antonello. Comunque sì, quello si mangiava di tutto. Un giorno si è mangiato una larva. Un bruco, praticamente era un bruco lungo 15 centimetri, grasso, largo, come l'ha schiacciato con i denti, è riuscito tutto il giallo è il rosso del sangue, uno schifo. Giallo verde, già avevo visto quello già, che schifo, per sopravvivere. E l'hai visto quella volta che ha preso una vedova nera l'ha schiacciata con una pietra e se l'ha successo tipo il granchio. Schifo. Ha detto anche a cosa somigliava il sapore, tipo cervella con budella marce, una cosa del genere, no? Mamma mia! Certo, il cadavello di Billy Malato, quella vedova nera ne ha staccato il pungiglione, dice la parte del veleno e da qui non c'è più, se l'ho estratta. Questo è buonissimo come antipasto, tipo il granchio, l'ha staccato e ce l'ha tutto succiato, un schifo. Allora, lui solo per una cosa ha vomitato. Gli hanno dato le palle della capra, le palle del caprone crude. Lui le ha mangiate una, però ha vomitato dopo. Era in Africa, nel deserto. Oh, quello non l'ho visto, ma ne ho visto parecchi io di documentari di quel fatto, quello è fatto. Per carità, anche le cappellette le prendeva quelle pelle grassotte. Se si accappa la testa, la sbucciava e se la succhiava. Pucci! Eia! E comunque anche un'altra cosa, ha detto che era terribile. Ha trovato un cammello morto, no? E gli ha tagliato la pelle e voleva mangiare il grasso che c'è sotto la pelle. Come l'ha assaggiato, l'ha sputata ed è rivoltante. No, certo, quello che ho visto io, no, là c'era un montone in alta montagna, non c'era mai subito verba. E a coprirsi non c'aveva niente, a parte la roba che aveva addosso. L'ha squarciato con un torbellino piccolo, ne ha levato tutte le budelle che l'ha buttato. E lui si c'è entrato dentro per passarci la notte, ma se lo immagini, dice è rivoltante proprio il troppo, meglio di niente, qui mi assicuro la vista, un avari. Allora l'ho visto, quello era un cammello, era nel deserto, chissà che fiago c'era dentro quella bestia. Invece in alta montagna c'erano anche i ghiacci e la neve, ha trovato un muflone che era caduto e era morto, ha preso un pezzo di carne, poi ha preso l'occhio del muflone, proprio la palla dell'occhio, e li ha fatti bollire nell'acqua bollente che sgorgava sottoterra, nell'acqua naturale, come si chiama? L'acqua bollente che arriva sottoterra, c'è un nome particolare, è una cosa, un fenomeno naturale, no? E poi li ha fatti, insomma, bollire in questa acqua bollente e poi se li ha mangiati. Quello che l'avevo visto, quel programma lì, che sì, quelle acque che guariscono un sacco di malanni, si immergi lì, ma non si devono nei musei, ci sono delle porte che sono più raffreddate lì che ci puoi entrare. Adesso non mi ricordo come si chiama. È tipo quelle acque dove vai a fare i bagni turchi, là, queste cose così. Eia, praticamente è un fenomeno geotermico. L'acqua si scalda in profondità dove c'è la lava e in superficie insomma ribolle, ecco. E lui ci ha messo l'occhio con un laccio della scarpa ci ha messo l'occhio e la carne, l'ha fatto bollire un pochino, appena appena, tanto da uccidere i germi, e poi se l'ha mangiato. Ma è allucinante, una volta ha fatto la pipì nella borraccia e se l'è bevuta. Bello schifo. Quello già l'ho visto, era in montagna che non c'era niente, ha fatto un buco e si è entrato dentro e la braccia dritto prima di rumbissi in quel sacco a piumino che c'ha. Si è appicciato e se l'ha tenuta dentro per rimanere alto per fargli caldo. Quello cazzale si ha visto, un assisto che sì, se dove non si va su fare il piccio, stesso colore hanno. Sì, c'è un altro programma, in realtà. Questa, siccome ha dato lo scontrato il tumore, no? Allora stava facendo la chemiurina, chi cazzo subisce il pazia e da cirurgia, ha fatto vedere queste di alcuni giorni che è un po' meno saporito, però è più buono, è più efficace per la malattia. La migliore l'ha convinta da farsi controllare, non so che cosa gli era venendo a cura di bicchiere un bicchio in giù. Quella era matta di manicomio. Mi, così è pompone, mi. Lui beve pipì e fa birra invece, piscia birra. No, perché mi sono tracce di birra nel sangue a me. No, tracce di sangue nella birra. Tre birra, vero Marco? A Pompogno ritrovano tracce di sangue nella birra. Ehi, gli sto dicendo Antonella, riciclarla quella. Sempre birra, o non è così Marco? Ehi, Antonella, bevi birra, poi... Quello che esce è giallo e schiumoso e quindi è come fosse birra. Lo rimetti in bottiglia, lo metti al fresco. Che mi perdi da campa cent'anni. Oia, oia. Già c'è un po' che di cose strane. Comunque, mi, Antonè, se mi hai preso il Gatorade, o il sostante, quelle bevande chiusano i ciclici. Allora, l'odore è del pipì, della pipì. La composizione è tipo quella della pipì, cioè acqua e sali minerali. È la stessa cosa, mi. Io non so che è la stessa cosa. Sali minerali... Se lo sali minerali è fatta una cosa, un vulcano, voglio che ce ne so. Davvero, la prima volta che l'ho preso, no? L'odore era l'onfio, era tipo pipì. E il sapore ti ricorda l'odore della pipì, perché praticamente acqua e sale minerali, così come la pipì, tutto lì. E cos'è Marco, quello? Mi pare si chiamasse Gatorade oppure Isostad. E quelle bevande sali minerali, ricche di sali minerali che prendono i ciclisti. Ah, no, ma forse anche quelle bustine che vendono preparate in farmacia per quando devi fare, anche non mi ricordo che visita e che, per cosa serve qui. Ti prescrive anche questa bustina, ce ne sono due o tre dentro la sacca. Prima di fare questa visita ti devi bere questi sali minerali. Quello non lo so, la verità, non l'ho mai fatta una cosa del genere. Io per gli esami dovevo stare solo a digiuno, tipo il sangue oppure altri esami, insomma, da. Non erano esami questi, era una visita speciale, non so che visita era. E dopo di bere questo preparato che vendono in farmacia, da diluire in mezzo bicchiere d'acqua, la sera prima, all'indomani fai questa pista. È una cosa strana infatti, non la conosco. E per dire, io quando faccio la visita quella dalla retroscopia devo prendere un preparato che prendo in farmacia che fa schifo. E non lo faccio umere la sera prima di fare la retroscopia, questa sostanza lì. E io fa schifo lo stesso. Ah, aspetta, mica non siano sali inglesi, praticamente è una purga, ti svuota tutto l'intestino e quindi è pulito pulito e si può fare l'esame. Quelli sì, io prendo quelli quando faccio quell'esame lì, i sali inglesi. Anche mia zia l'ha fatto, anche mia zia, e a lei l'hanno addormentata però, non so perché. sono addormentata con l'anestesia generale, non si è accorta di nulla. No, io insomma devo fare almeno una volta all'anno. No, non mi sono mai fatto addormentare. Già, dipende dal tipo, dalla mano. C'è quello che non c'è buono e c'è quello che fa piano piano, manco te ne accorgi. Dipende dal tipo, capito? Antone, vieni che ti faccio la retroscopia col dito. Sì, sì, dove hai pigliato per un coso, un cavallo, quella puoi fare a un cavallo, metti tutto il braccio e ci metti dentro alla, al bacciografo e poi riprendi il coso. Attore! Sì, io. A tirarmi il caffè, sì. A chi? Beppe, che abitava lì in via Maddalena, quel fino anziano. Dimmi, adesso io ho capito. È morto, no? Un anno ero ricoverato all'ospedale e c'era, guarda che strano, c'era lui ricoverato in quarantanno. Ogni anno mi dava al dottore che ripuliava la retroscopia, a chi mia zia. Certo, meglio si mette un manico di palazzo, lenta. Marco, che è vero, una ghetta di aghi per tirare con tu buca. Mettiamo però, mettiamo un vendone. Certo, cosa si chiama stasera? Così rinfresca la canna. E poi così sente l'acqua, Antone. Sentiamo il tuo vicello, adesso è un bel, che c'è le finestre, capito? La più bella che è forte. Ma senti l'acqua, tanto reso, mi non ti sa la gara, manzata. Sì, qua niente però, solo Antonello piove. Perché la nuvola di Santuzzi? Allora, sta piovendo qua e dalla parte di Ursino, quindi ci mi piglia in pieno a me, capito? Perché la perturbazione è parte dal Gheo, hai capito? Quindi prende tutto via Milano e sali su. Hai descendente? E dove? Barrato, a casa sì. Ehi, buonasera a tutti, a casa sono. Riga, o si sta piovendo, glielo credo, ogni passare i fulmini mi appunto a mezzo fa. Ah, la verità, un po' di più, già dai, sta scaricando però, e l'energia sta diminuendo, è più nuvola passeggera. Comunque, da Ossi non sta avendo l'Alghero, sta arrivando da, come ti posso dire, Florinas, quella zona lì, da Florinas a Ossi. Vediamo, ho visto. Marco, mi stavo per chiamare stasera, Tomè. Ho fatto chiamate per tanto, invece pure, no, sarà fuori, senz'altro, quindi ho lasciato perdere. Ho preso un po' di saldine, birra, e me lo passavi qua. E invece pure, no, sarà dietro, sei stato fuori, non ho voluto salvare. Ah, sinceramente ero a casa. Potevi chiamare, avrei preso anche io qualcosa. E vabbè, adesso ho ripetuto la prossima settimana, organizzo e ci facciamo un bel pranzo come si deve. Poi dopo ti diamo un cannone e poi ci mettiamo fuori al fresco, aspettiamo che piova. E vabbè, va bene, dai, ci facciamo gli occhi rossi, ci facciamo, dai, tu prendi il collirio. E già prendo la pila con il collirio. Buonasera Antonello. Buonasera anche a te, ben sentita che c'è, anche c'è, anche, scusate invece la lingua legata, anche che c'è in ruota. Ciao Antonello, da questa parte gufo, riprenditela tu, io rientro dopo. Via, ciao gufo, buonasera, mi avevo adesso, ho acceso adesso, ho sentito la voce di Prompronio. Prompronio. Yeah, just Antonio, questo rumore cos'è? La cosa sta arrivando a Sassari. Sì, là come sta piovendo qua. Sta arrivando a Sassari, sono voci grosse. Anche qui adesso ha diminuito. Ha diminuito, sì, anche è smesso adesso, c'è un po' di sole. Ha fatto anche un po' ma c'è sole. Però guardando qua a Sassari, vediamo un po', aspetta, va. Sta piovendo anche qui. E che zona sei? Ancora non l'ho mai capito. Vabbè, zona strada 131, è possibile? Zona campagna. Ma io? E io? No, zona cinema Ariston. Ah, ho capito. No, perché io pochi giorni fa stavo rientrando, sta facendo casino, stavo rientrando per la camionale, no? E fai Alghero, poi giustamente prendi Sassari. Prima di arrivare al bivio di Canica c'è una piccola salita, diciamo, una strada nuova. Lì sulla destra ci sono delle case sparse e ho visto una mantova, non so se uno o cinque, non ho capito mai chi sia. Magari Pomponio lo sa. Lì a Canica ci abita Vittorio e poi ci abitava cosa che non facevano volato. Quello che si chiama la ragazzina che fa la notte anch'io. I due erano, non mi ricordo se dove la tipo la fretta. Non si invitava qualcuno, ti la metti ma. Antonio, difficoltà a sentire la tua voce con la pioggia. Poi dove ci abitava lì a Carica, cosa? Ci abita Vittorio, tuttora. Poi c'è anche quello che quel ragazzino che è venuto dalla baracchia che ci imitava a Falcone, che non mi ricordo il nome attivo adesso. Non mi viene in mente il nome. Nemmeno me, non me lo ricordo proprio. Comunque Antonio ce l'hai presente dove ti ho detto, guarda tu salendo, rientrando per Sassari, per esempio stanno ad Alghero, poi rientri a Sassari, che poi dopo il salitone c'è una discesa, il primo bivio che trovi giri per Canica, ok? Poi prosegui dritto e va a 131 gallerie. Lì sulla destra sono delle case sparse, più che case sono piccole palazzine, piccole villette. E c'è questa antenna, dovrebbe essere una mantova per forza, al 100%, però non so se sia Mantova 1 o Mantova 5. Credevo che modulava qualcuno che era ancora lì. Ho visto l'antenna, io mi sono sempre posto la domanda, ma non so chi sia. E c'è anche Angela Leoni da lì che modulava, che rimane prima nella sala vecchia, rimane sulla sinistra. Quello l'altro non mi ricordo come si chiamava che modulava lì, non mi viene in mente il nome, cazzo. Si stava spesso, faceva ridere perché faceva l'imitazione di Falcone, faceva pizza a Paoletto. E che modulava anche la madre. Non mi viene in mente il nome adesso. Comunque Vittorio c'è tuttora lì che abita a Canica. Poi altri cibi di Canica non me ne ricordo altri, perlomeno. Gianluca può essere, o Luca. Forse Luca, non mi ricordo adesso. Vabbè, Luca è il figlio di Leonida, quello che avevo ricordo. L'altro, che non mi viene in mente il nome. Ah, io proprio non lo conosco. Fare quel reticchio o qualcosa da fare qui. Sentiamo alle prossime, dai. Eia, e ci devo salutare a Claudio. Già voi due a dire senza intendere. Buonasera Claudio. Ciao, buonasera a tutti, vi sto ascoltando. Quell'antenna che vedi tu lì sotto è di Franco Delta 1. Ah, Delta 1, diciamo persona che è da un po' che non modula, giusto? Perché è abbastanza visibile quando rientri per casa, ecco lì, te la trovi sulla destra salendo. Sì, credo che si abbia venuto tutto, non c'è più niente. Va bene, bella passata l'acqua, almeno mi pulisce le antenne. Va bene, buonasera a tutti e buon Ferragosto, buon fine Ferragosto, anche se molto bello non è. Mi sto ascoltando, sono in altre frequenze. Ciao Antonello Pomponio, Antonio Barracuda e a Marco e anche a Graziano, se ancora in ascolto da poco. E da poco anche sento. Ci sentiamo. Dai, mi stanno chiamando. Ci sentiamo avanti, riprendi Antonello Barracuda. Via, ciao Claudio. Buon divertimento. Con Pugno, tocca da te, eh. Saluto Claudio Basilito e non c'è problema. C'è Marco che va, stava chiudendo. Ciao Marco, ci sentiamo le prossime. Cos'è che viene in mente il nome? Di quell'altro cibo che era vicino anche a lui, non mi dà in mente, ma quella ragazza che muoveva spesso. Francuscia, è stato un po' di anni, la vecchiaia, carogna, la mia voglia delle artifiche. Andare, non c'è una bella acqua, visto? Un po' di pochino da trovare, vedi che ti è stampando oggi, ho tutto quello che c'è in giro. Una bella trampata, ragazzi. Davvero, quando fa, diciamo, acqua dopo una bella estate abbastanza polverosa e calda, è abbastanza pericolosa, sia per le macchine che per le moto, perché a quanto pare tu vedi essere motorizzata ancora. Comunque, guarda, domani al 100% mi avvicino, ti spiego, in paese, zona Sicara, non so se ce l'hai presente, c'è un salitone che poi ti porta dalla piazza sul piano, c'è questa antenna abbastanza nascosta, non è sopravvertente, piantata in un terrazzo, e dovrebbe essere anche lì una mantofa. Avanti di qua, domani ti giuro suono e chiedo a vedere chi è, chi non è, se vuole rientrare o che cosa c'ha, vedi se capita qualche occasione interessante. Io ho capito quale ti dice, dalla piazza c'è una scala che sta vicino su alla discoteca, che la ricordo, c'è la discoteca, faccio un bar lì, se lo ricordo male. Adesso non c'è più. E si vede, di sfuggita si vede, che ha un po' di occhio per queste cose, sai, te ne accorgi subito. A volte capita quando fai qualche piccola consegna, no, in zone alte, che ti affacci nel terrazzo e ti fai un po' un giro intorno e vedi un po' se c'è qualche antenna ancora in circolazione. È l'unica che c'è in paese, giustamente tranne qui insieme a me, io sono l'unico che muoto, mi avvicino e chiedo un po' chi è, chi non è, se ha qualcosa, vediamo un po' anche se mi dice anche il nominativo, se lo riconosce ancora. Dunque, una cosa e l'altra, neanche tu sei uscito, girai tutti a casa. Beh, dove fare? Andavo in pietra, cattimetto nel presso, non sei matto, l'ho fatto una volta e me lo ricordo ancora. Figurati, siamo andati a mangiare, ho detto, ma qua la bistecca sono riuscito a mangiarmi. Siamo 5-6 vespe attaccate alla bistecca. Ai bello, mi sono giocato tutto, e poi io, abbiamo il freno e ce ne andiamo, e ragazzi ci vado a fare in pietra. Non saranno, non esiste. La carne, è meglio mangiarsela a casa, fuori, almeno non c'è pericolo. Mangiare in pietra o in campagna, con le vespe che ci sono in giro, e la ti attira per forza, anche col pesce addirittura. Figurati. Meglio fatelo a casa, sei più tranquillo. Poi magari una volta mangiato puoi fare anche, puoi scendere anche a fare un giro per avere le bancarelle, di solito sai, ci sono le bancarelle a parte mo. Sì, quello sì, sicuramente già bene o male. La verità, guarda, in via dove sono io, sembra che nessuno ne abbia voglia, vabbè, sono un po' grandetti in realtà, ma non così tanto da non uscire, anche noi giustamente abbiamo fatto compagnia. Ma sicuramente un bel po' di gente oggi è uscita, Platamone, Alghero, Portoferro, dai, perché sono un pochettino più ventomate. Dovrebbe esserci festa stasera, un gruppo a Portoferro, sono degli amici che devono andare, mi hanno invitato, ma giustamente la famiglia chiama, se no volentieri ci sarei andato. Che ora sono da Portoferro, mi avevo io, andavo di Comola 1, e l'antenna lunga di 1,65, poi c'era Angelo Delfino, la stessa cosa, con lo stile occidentale di Grand Prix. Poi dentro di noi c'era Mario Mansell, Marina e Davide, c'era, eravamo in tre. Siamo andati in pinetta lì e ci siamo divertiti da Portoferro. Siamo diventati verso le 7:30 del turista, la figura, però allora c'era di Girolo. E urlava la campanella, l'uscita di Veritalia, cioè, questa era quando scendevi per andare a 131, da lì a campanella, 9:30 con il 5:50 a campanella, e dicevo, cazzo, quando uscì a campanella, sì, aspetta che sto scendendo, non sto scendendo nulla, che sono andato vicino di Veritalia, ho detto, stiamo andando al Alghero. Vabbè, ho una bella zona, è abbastanza aperta per Sassari. Ecco, c'è una buona antenna già da tutte le parti. Comunque mi ti saluta Gianni Capri 2. E ti saluto anche da parte mia, già non c'è problema. Sono parecchio che non lo sento. Lui dice che c'è un po' di lavoro, lui dice secondo come dovrebbe avere di nuovo, un nuovo apparato valvolare, non so quanto è grande questa roba. Adesso vediamo un po', dai sicuri. Intanto ne toglie qualcosa. Intanto non faccia qualcosa, vuole dire. Ma si compra gli apparecchi, poi se li vende, poi te li compra, neanche lui sa più cosa fare. Noi facciamo la maniera che ci abitava la roba, capito? Quindi no. Ha già crepato 3-4 baracchini, dove va? Meno male non ha toccato il tempo dell'altro lì, ancora. Ah, se non sbaglio li ha venduti, se non ho capito male. Li ha venduti quella che aveva comprato, quant'è? 4 mesi fa, esagerando. Era un bel apparato lo stesso. Guardate, quanto pare se l'ha venduto. Intanto diceva soldi, anche perché lui ha comprato mi sembra un puma, quindi vuol pagarlo, ma non è che puoi usare così di quante volevate, se non incassi molti soldi per forza pensare prima al lavoro poi al baracchino, così faccio io. Adesso quando incasso prima mi compro qualcosa di bello io. Di momento non ci sto neanche pensando, basta questo e basta pure. E ha voglia quello sì, ma però guarda, è arrivato a un certo punto per esperienza, porca miseria, guarda, la verità, conviene comprarli nuovi, però nuovi. Cercavo di trovare qualcosa di vecchiotto, ma allo stesso tempo in scatola, perché in seconda mano, guarda, porca miseria, c'è sempre qualche magagna, è allucinante. Lui ci sono in scatola, revisionati, devi telefonare qualche ditta, che c'è qualche negozio per fare le revisioni, allora tu per il revisionato con la garanzia di un anno, se per caso tu bene non mi mandi indietro. Lo so, adesso vediamo cosa. Per le cose già sono stato frustrato, per il Galaxy e per l'Icom, adesso vediamo con questo cosa ne c'è fuori. E mi diamo musica, capite, baracchino buono per comparti, basta avere pazienza. A me mi interessa che abbia nella parte laterale come il Galaxy, poi io non devo prendere altro, finito, mi basta, sono ben completo del genere, poi e poi con gli acquisti della trazione, parte avanza quella che ho. Uno per ricambio alla fine, capite, per girare un po' tutto. E io sono a posto, ho finito di comprare, poi finché durano. Se posso rifare il riparo, se non facessi, gli anni altri tre per dire no, c'è il ricambio. Poi, con quelli cerco di fare qualcosa del genere, ho finito, però in buone condizioni, che con tre attacchi a casa non ha problemi, ma è abbastanza difficile trovarli di seconda mano qua, ognuno ha un difetto e ci piace. Vabbè, quello sì, ricordati quando una cosa a seconda mano sente qualche difetto, dottore, a meno che non sia una persona che conosci bene, proprio ma veramente bene, che ti fidi di lui. Ti dirà parecchio, magari lo senti tutti i giorni e sai che non gli ha toccato niente. E allora lo puoi anche prendere, se no lascia perdere, che è meglio. Lo so, ma cazzo aspettiamo un po' mesetto, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. No, perché quello che ho preso è molto bello, esteticamente. È abbastanza funzionale. Adesso vediamo se riesce a risolvere questi problemi. Vabbè, comunque ci sono i finali per gli apparecchi HF che costano poco prezzo. Basta scrivere la sigla su internet, che ho trovato l'altro giorno. In più ci sono quelli del Kimbo, costano 30 euro uno. Ma anche io stavo pensando di mettere l'Icom, ma i problemi sono due. Uno che non ho alimentatore per alimentarlo, perché quelli che io sono troppo piccoli, uno da 3 ampere e uno da, ti ricordi, da 6 ampere. Non basta, la trasmissione non basta. E poi ci vuole il microfono che non ho. Vabbè, il microfono puoi piazzare qualsiasi microfono con lei. cinquantina di euro, di cui 50 ampere, di quelli della tipo Zoxer, e basta, e i finali ti devi comprare. I finali basta che controllare la sigla su internet e lo trovi subito. E ti devo venire direttamente là fuori, la coppia. Non sai cos'è Antonio, non so se ce l'hai presente, questo c'ha gli attacchi come quello del telefono di casa, ce l'hai presente quegli sbirotti bianchi trasparenti con una piccola molletta, adesso non so se ci sono 4 o 5 carte fini, di diversi colori. Dunque per il microfono che uso io bisogna fare qualche modifica strana, avere qualche riduttore, qualcosa del genere, capito? Ma in più ci vuole giustamente i finali, è un buon alimentatorio, quelli che io ripeto non fa. A me adesso ce l'ho acceso, è un'altra frequente, però riesco a alimentarlo tranquillamente con 6 ampere in ricezione, ma in trasmissione manco per il ferro di corica. Sì, già lo so, per il microfono già c'era l'adattatore, capito? Adesso ce l'avevo quel baracchino e l'avevo venduto mi sembra 600 euro, mi ricordo adesso. Tra due e c'è lo stesso attacco, l'amico ci aveva messo nel MP5 che era una bomba, era. Non lo so, adesso vediamo un po', dai. Lo schema ce l'ho, bisogna vedere. Vabbè, già sono anche di chiedere per il finale, vediamo un po'. Non è per adesso, ecco, non è per adesso, però piano piano vediamo se cosa ne esce fuori. Positivo. E io abbia già tardi per quello, non preoccuparti, io abbia più bisogno di pazienza, adesso appena ti recuperi qualcosa, i soldini verranno che te lo sistemi l'apparecchiatura. Ti controlli i finali che il modello sono e te li ordini, poi una cazzata a piazzarli. No, qui ci mancano totalmente, Antonio, non ci sono. A quanto pare sono bruciati e tolti, dunque la sigla non lo so, ma non costa niente chiedere a chi me l'ha venduto, dovrei avere il numero di telefono, glielo chiedo. Ma ripeto, non è per adesso, sono volentieri, guarda, muoio poi è stato aggiustato, però ci sono altre cose molto più importanti, poi oggi lavori, domani non si sa. Dunque quei soldi lì sono per il momento spesi male, ecco, poi vediamo come gira la ruota. Adesso pensa a lavorare, pensa alla famiglia, perché la tocca in culo, capito? Però c'hai i soldi in più, te li metti da parte e dici, beh, adesso chiedo, guardo gli ordini finali, ho fatto che fateli di una bottiglia di ordinati, dici, per tu, installami quanto vuoi, per dire, 20 euro, e dai, però non c'è un apparecchio funzionante, e lo utilizzi in qualsiasi frequenza. Lo so, ma l'antenna che utilizzo io, Antonio, la mezz'onda, non va bene per gli altri frequenti. Sì, le riceve, ma non credo che riesca a trasmettere con quell'antenna lì. Poi non brucia anche l'apparato. Non sono impedenze completamente diverse. Vabbè, tanto tu usi il 27 con l'apparecchio, perché poi se vuoi andare in VU, ti compri una bella antenna piccolina, per la V, per la U, e te la installi, cosa cambia? Poi per la questione delle HF, basta fare un dipolo, se vuoi già ne hai spazio, non è che ci spoglia questo granché. Basta controllare che frequenza devi fare, si fanno le misure e te lo fai il dipolo. Per dire, per i 45 metri era 10 metri e 20 per braccio, figurati. Lo metti a bordo risciatta e ti fai dai 40 ai 45, e risuona benissimo. Me lo puoi ascoltare, ti puoi divertire, poi per le altre cose non lo so, perché al solito compri un dipolo multibanda, quello c'è un po' di soldi e c'è tutto, capito? Non so che più di un'antenna che faccia 11, 40, 45, tanto, tanto, cosa ne so. Che ci sono i multibanda che fanno un sacco di frequenze, è un'antenna unica, verticale, se la biglia in culo, deve stare sempre a cambiare PL. Quello già è vero, solo che c'è sempre Antonio ti denunzierà, non conviene rischiare, no, però è la verità, già sono sempre in tantissime frequenze, lì adesso sono in 145, 775, ci sono i... Francesco sono. Ecco, sì, facciamo che 157, 775 dove c'è la TP, capito, per ascoltare i tram. Dopo poco stavo usando in sull'88 io, 147-425. Sto facendo le prove con dei buoni fermati di nota di parare con una barca, e quindi stavo parlando soltanto USA, tattica americana, e la frequenza è 157-425. Ma cosa è usato? La mezzo, la 5/8 per modulare? Ah, ho usato la 5/8, sì, la verità. La mia 27L usciva perfetto. Si sentiva che andava bene il finale, però lo sentivo benissimo a lui. Però c'era l'antenna in gomma, quella che uso di solito, attaccata alla finestra. Ah, ecco, è visto live. Ne soffro un po' perché non c'è l'antenna ideale, però vedi, c'è la possibilità quello di modulare. Quello sì. Ma no, comunque per normale, dalla mattina alla sera c'è sempre qualcosa, non c'è niente in 27. Con la sta acceso sul 5, poi me ne vado altre frequenze, poi tutte le sere, anche l'ho tentato. Io sono sempre acceso io. Io di solito uso di lì, ho capito, solo tanto Tomarino, tanto non c'è nessuno, non usa nessuno, è una frequenza libera, non ti rompe le palle nessuno. Parlo con quello là, con quell'amico mio, capito. Così mi faccio compagnia 5-10 minuti. Aspetta Antonio che è caduta la scala, arrivo subito. Che aspetta la scala? Cosa dite? Aveva preso una scala di quelle piccole a 3 gradini, per fortuna non c'era nessuno dietro. Ah, beh, pensavo fosse di quelle medie là, o lunghe. Certo, una volta c'ero sceso la scala io, ho fatto impianto l'antenna. Sì, ce ne prende quelle scale che si fanno piccoline, no? Le pieghi, a tipo libero. L'abbiamo allungata, messa giù, qua salgo sopra la scala e meno male, il tetto era un metro, quasi 2 metri. Ci è rimasta appesa una grondaia, la Salghero. E quanto era alto la terra? No, la scala si era piegata, si era piegata, troppo, ne scese in terra. Io sono rimasto appeso. La sentita quando si tutto cos'hai, ho detto quanto è successo, no, siamo vivo, io ho detto, ma fa un culo a te, ho detto. Ma è sceso, la scala, adesso aspetta che scendo. E mi ha appeso nella grondaia, non ci vedo, mi sono mollato, ho fatto 50 centimetri, sono arrivato via la scala, no? E mi aveva male, mi sono fatto una da padrone di casa e sono salito sopra per fare l'impianto l'antenna. Insomma, l'ha ammazzato. Comunque la scala era effettosa. Un giorno andiamo all'università e sale Emanuele, grazie a lei, non si apre la scala, c'è uscita la fioriera, c'è uscita in corridoio, c'è uscita per pianta e tutto. E sembra così, bisogna fare attenti, anche quando pianti i mobili a volte che i clienti giustamente dimentichi la scala di caricarla. Devi chiedere ai clienti, a volte danno di quelle scale, guarda, che vogliono prese buttate alla mondezza, quanto niente, tu col mobile sopra la scala, guarda, sono dolori, non c'è da scherzare, maledizione, che poi alla fine cadi in pochi centimetri, ma quando cadi sempre male, quello è il problema della scala. No, già lo so, no, io una volta sono caduto nella... c'è caduto, mi è scivolata la scala perché... ma quello è quando mi capo in conseguito di Emanuele, si è spaccata per la Milano Grand Prix e questa ragazza spagnola l'ha fatto, il brasiliano spagnola, ha preso e ha passato nel pavimento per uccidarlo la luce del pavimento, come ci ha messo la scala ci è uscito tutto se me la guarda non ero sopra, ero a metà della gradina, se no ci è uscito giù direttamente, ce l'ho sceso, scala e tutto. All'epoca cosa avevi, gli occhiali? No, senza occhiali ero, grazie. Ma questo sempre ricordando la poco quando eri più giovane con i capelli e gli occhiali. Più bellino, avevo più capelli a quel periodo. Quello già è vero, guarda, ti voglio spiegare una cosa. Come ogni anno, giustamente, San Bartolomeo, che è patrono di Ussi, stranamente, guarda, io ho 39 anni e per 39 anni ho visto sempre la solita storia. Un mese prima che si festeggi San Bartolomeo se ne deve portare sempre 5 via, e 5 se ne ha portato, guarda, in giro di una settimana, Antonello. Cazzo, Maria Ussi? C'è la gente che si tocca i coglioni quando si è passato San Bartolomeo. Ma ti giuro, è proprio così. Vabbè, uno ne è morto qua in via 7 giorni fa, un giorno dopo che è morto questo signore in via uno si è impiccato, poi è morto una signora anziana di 87 anni e poi un signore poverino, padre di famiglia, malato da anni in carrozzina, abbastanza conosciuto in paese, guarda, c'era il mondo il giorno, e poi un altro signore pochi giorni fa, 5 in tutto, adesso si dovrebbero fermare al prossimo anno. Guarda, ogni anno a San Bartolomeo è impressionante. Io per quello mi avete preso, se andate in macceria avete preso i coglioni del coso, del maiale, sono là, quelli del cavallo li avete appesi in coso, nella porta di casa li avete appesi. Davvero, mi. O qualche rito voodoo, cosa ne so, qualche malocchio, cose del genere, aglio, un po' di tutto. No, guardi, giuro, è allucinante, è abbastanza famosa la situazione del paese, guarda, se tu la racconti non ci crede nessuno, purtroppo è così, guarda, c'è qualche persona anziana che conosci, glielo dici, vedrai cosa ti spiega. Cazzo, mi sei toccato le balle, allora, cazzo se ne porta 5, almeno vai. Quello che mi è piaciuto di più, quel signore che si è impiccato, mentre aveva 57 anni, e a quanto pare, così per sentito dire, ha avuto problemi con la compagna, diciamo che questo è un po' particolare, non è di Ussi, è romana, e per quanto mi hanno spiegato in paese, questa dice è entrata in bagno, si è preso un bicchiere e se l'ha tirato in faccia vicino al zigo, allo zigo, no, sopra l'occhio, per le sopracciglia, e si è tagliata, lì ha chiamato i carabinieri, sono venuti e l'hanno arrestato questo signore. Io dicendo tranquillamente, guarda che io non ho fatto niente. Giudici e avvocati, questa gli prende la casa, lo butta fuori, perché c'è una figlia tramite questa signora qua, e la fanno abitare 300 metri fuori da casa. Dopo lei si è ricreduta, 2 mesi dopo l'ha rivoluto, e a quanto pare questo, perché è entrato in prigione, ed è la prima volta in tutta la sua vita, dice, neanche nessuno la dice nella mia famiglia, è entrato in galera, si è preso una depressione, è andato in cura, medicine, cose varie, e che poi si è tolto la vita, alla fin fine, sempre per, come si dice, per colpa di lei, di questa qua. A volte capita, non bisogna mai... Quando si sceglieva una compagna di solito bisogna, ma era fatto per gelosia, hai capito? A volte per i picca fanno cascoglionate. E lo so, questa c'ha 3 figli e tutti e 3 con diversi 3 tipi di padri, immaginati tu un po' com'è questa. Questa era mai fidanzato, mai sposato, sa cosa ha visto in lei, o lei cosa gli ha fatto vedere, gli ha montato la testa, sa come funziona. Lei senza lavoro, lui ha sempre lavorato tutta una vita, capito, ha trovato loro, e poi alla fine è andata come è andata. E adesso si attacca al tram. Quello è poco ma sicuro. Diciamo, lui che ne usufruisce alla fine è la figlia, ma c'ha solamente 6 anni, quello gli spetta 18 anni, penso è per termini di legge, poi bisogna vedere un po' come va la cosa. Il periodo adesso mio, lo sai, di periodo strano. Ogni tanto ne capita uno, c'è chiamato il marito, c'è chiamato la moglie, c'è chi la fidanzata. Che periodo questo adesso? Mi si è messo un accordo che la gente sta uscendo pure di testa, non c'hanno più le palle per affrontare la vita, allucinante. Un 448, ammazzano gli altri, si tornano la vita, boh, e finisce lì, non hanno palle, queste persone non hanno palle. Che infatti, appunto per quello, leggai. le palle ce le hai, non credono. Sì, a voglia. Pensano pure. E dunque, la notte hai programmato qualcosa, qualche tettino? No, stanotte niente, da pestica voglia. L'altra volta sono andato alla Coralina e invece a Tantamona vive lì. E la madre vive lì, cazzo. Sono con la madre l'altro giorno, con tua valle. Dice no, dice a Tantamona dice abita mia figlia, con la bambina. Mi dice, cazzo, che no? Qualcuno mi ha detto la sveginata. Ai Dio mio, sicura. Quella grassotta è una bassottina spagnoletta. E io vive a Tantamona adesso, con la bambina, mi ha detto. E la mamma vive lì. La mamma, diciamo, è di quelle signore disponibili, oppure tranquilla? La moglie è disponibile, basta che hai i soldi. Beh, in carne, Antonè, si può? E a voglia già si può, già. 50 euro vuole, né? Capito? Quindi... la moglie, infatti è intossicata, tu c'è la mamma e la figlia dentro. E invece lì si apre una casa fatta nuova, evidentemente con la bambina piccola lì fa da una parte e l'altra dall'altra. Dice anche con la figlia continua a fare questo mestiere, è Dio mio caro. Sperando chi l'avesse incinta si abbia preso la responsabilità del figlio. Ah, boh, non lo so questo. Non glielo chiedo la verità. Ma di quelle avventure cosini non sai neanche di chi sarà, poverino. E senz'altro. E che cosa tu, Antonello? No, io se no l'avrei dato la benedizione io. Avrei dato la benedizione un bietto qui. Gianni Doppio, si è fatto più sentire? No, non ho più sentito la verità. Neanch'io, sto cercando frequente, non per farlo. Non è più a pari che Antonio per stare lì a girare un po', no? Anche quello ti è venduto. Io non ce l'ho venduto 70, no, non ce l'ho, ma fa poco già mi compro l'altra, quindi no, già me li faccio adesso, quindi già sto, se me la prendo nuovo non la prendo la seconda mano, non mi fido più di piano per la seconda mano io, anche se ho durato 10 anni la prendo nuovo, a me lo so se lo compro che poi io. E quale? Quello cinese, quello che mi hai fatto sentire la volta scorsa, su quello si è puntato, non è che hai fatto una ricerca per avere qualcosa di un pochettino più, come ti posso dire, fatto bene, dai, non cosa così copiata come fanno i cinesi. Allora, quello non mi prendo. Era, ho visto il sito, ce l'avevo ordinato, e mi ordino quello. Devi ordinarlo da fuori o in Italia? In Italia. È buono, dai, almeno c'è un po' di garanzia. Guarda, io un po' una settimana fa ho trovato un CD, giustamente non mi sono si fanno, e l'ha preso pure in Spagna degli apparati, che qui costano, Antonio, guarda tanto sul sito, 300, 350, lì con 150 euro ti compri un buon apparato, non costano niente, costano due soldi. Infatti, come la volta scorsa, conviene beccare quei viaggi, andate e ritorno con 30 euro, andate e ritorno, ritrovi quelli che lo costa 2 cifre, parti, prima ti organizzi con la cartina, vedi un po' sul sito dove andare per comprare, una, dove vendono queste apparecchiature, vai lì, ti fai un giro, compri e te ne rientri, e hai risparmiato, è una barca di soldi, oltretutto ti fai anche un viaggio. Sono andato solo prima, la dogana. Avrei dato male la dogana, non c'è più. Aspettiamo la dogana franca, così almeno quando arrivano i medici qua, in Sardegna non paghiamo la dogana, almeno la paghiamo di meno, no? E quello non lo metto in dubbio, però lì poi dogana non le paghi tranquillamente, in comunità europea. Dunque vai a Petri lì, te ne prendi uno tranquillo e pacifico, lo provi, l'uomo di zecca in scatola, ripeto, risparmi, te ne ha fatto anche pure i soldi, con 300 euro, ti esce l'apparato, il viaggio e te ne ha fatto pure guarda in tasca. Compratelo qua per dire in Italia, un esempio stupido, a me piace moltissimo l'Ara 2001 XT, un bande laterale, omologato anche in quelle bande. Tanto quello trovi a 356-375 euro e fuori in Spagna a 150 euro, aiuto dai. Perché se lo fanno pagare qua non sono scemi, no? E mall'anima. Tanto ricordo veramente due cinti, conviene l'acqua, veramente, conviene l'acqua. Ecco che era, sì, glielo grido. Alla fine con l'apparato che vuoi comprare tu, che metto che costa sulle 300-400 euro, vai là con 250, te ne rientri con l'apparato e viaggio, e ti hai mangiato anche una bella pizza lì, e te ne rientri, tranquillo e pacifico, sempre che non hai paura dell'aereo. Per quello vado, metto un buon cinese, capito, me la faccio regalare. E questo non è male, allora andiamo insieme. Almeno ripeto che tutti tengono la pizzola lì. Per quale motivo? Perché c'è zio, sai che non legano con gli italiani, quindi figurati, là già sai che c'è una sciabola molto veloce, magari tu di qualche parente che non vuole ammettersi come un italiano, qui già tentano il pisello. E alla fine conviene per un apparato, cosa ne pensi? Ne vale la candela? E se c'è qualche amico cinese sì che c'è un negozio, quanto vuole fare così. Devo chiedere adesso, al centro storico. A un paio di amici miei che c'è un negozio lì, se me lo ordino. Perché no? Sempre sperando che anche voi tutti qua vogliono i soldi e poi non ti ordino nulla. Ah, se mi fa una cosa del genere, io lo sai che è difficile fare una cosa del genere. Per quello per quello non sono la metà dei soldi. Io faccio fare la ricevuta e poi appena arriva il pezzo io il resto non so così macchino che gli do i soldi e poi non vedo nulla. La tua signora come sta pure? Da poco? Ho capito quel signore? Scusate, ero troppo lontano. La tua signora sta bene, tutto a posto? Sta guardando la televisione in cameretta. Di giorno che vengo ce li faccio un regalo. Via, dai, glielo dico dopo. Faccio scusi qui in camera perché poco fa mi sembra che la camera stava musicando, scusi. Non so per che cosa, forse perché è nervoso in camera perché sentivo il temporale, capito? E quindi si è partito a fare gli è fortuna che non stava lampando e tuonando, allora sì che tu dovevi battagliare, allora stavolta dorme con te in casa. No, no, faccio come tu, scendo giù in casa di mamma, lo scendo. E le due qui, figurati. Lo scendo giù, dorme giù, lui tranquillo. Quando lo scendi giù, vuole ritornare con te o te ne sta tranquillo in casa? Ah, no, vuole tornare lui con me. Scende giù, la benedizione a mamma e a mio fratello, poi vuole salire su. Credo, già si vede che è affezionata a te. Oggi vuole portarla a pisciare, no? No, oggi no. Ho già pisciato fuori. Perché la zia. Mentre cucinavi le sardine? Ah, lo meglio, no? Le sardine le cucinate prima, e l'ho preso dopo. Cazzo ce la faccio, cazzo, così magari poi piscia la presa e piglio il fuoco. Lo so. Ascolta, mi hai preparato anche olio, acqua, prezzemolo e aglio e un pochino di peperoncino per bagnare questo pesce qua, sì. Prezzemolo, peperoncino, aglio, li ho messi a bagno, dopodiché ho fatto copiare un po' di condimento di quello che c'era, come so che sale, naturalmente mezzo all'acqua, e poi me le mangiate. È sceso anche mio fratello, ne ho preso un chilo, ne ho preso. E poi ho fatto tutto il sughetto che ho fatto, un sughetto normale. Buona retta. E le muove per le mani, te l'hai preso, sì, per togliere l'odore. E c'è il coso, ma la vecchia se per questo che le togliere le mani, dove di rimuovere, non c'è problema per quello. La parecchina la usi così, eh? E sono cambiato dalle candeggina profumata. È davvero. Sai che è un problema per il odore del pesce dalle mani, è impressionante, guarda. Minimo se non te ne lavi bene o con qualche prodotto specifico, ti rimane anche 3-4 giorni, eh. Sì, già lo so, se non sono accorto. E quello ogni tanto già me ne lavo. Questi giorni propagazione, peccato ne hai, no? Ancora abbastanza muto la 27, è vero? E infatti è strano. C'è una... è strana la propagazione, c'è la foca oggi. Eri verso le 11:30, mezzanotte meno un quarto, sul canale 27, in FM c'erano lì. Era la prima modulazione dalla Germania, poi non c'era altro. C'erano due o tre che parlavano, poi l'unico canale qui era quello. E poi qualcosa in banda laterale sul canale 12 di spagnoli, poi non c'era altro, poca roba. Positivo. È così, purtroppo è così. Vabbè, comunque ya. Magari c'è proprio che stavo dentro di stanno perché ha piovuto. Un po' di propagazione la farà dopo. Chissà che ci provo anch'io. Vabbè Antonio, io ti lascio, vado a fare una doccia veloce. Se ci sei dopo, guarda, lascio acceso. Ce ne mettiamo dopo, si andrà a casa, se no a casa. E già entro dopo, mi metterò la cosicina, scusi intanto io. Ci andiamo dopo. Via, già Antonio, ci sentiamo, appetito a dopo. E via, allora, tanto, ciao dopo.